24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Buongiorno e ben svegliati, cari ascoltatori. Sono le 6:32 minuti. Siamo pronti con la nuova settimana di 24 mattino. Sono qua, sono tornato. C'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Lui non si è mai mosso. Così come il nostro Alessandro Longoni. Anche lui che tira sulla saracinesca, non si è mai mosso. Non rispondo a nessuna domanda. Non è alla sfilata di ieri, eh? Lasciare nessun tipo di dichiarazione. Fine. Ma perché non rispondo? Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ebbene sì, la nostra moca. L'avete vista ieri sfilare, Nicole Minetti? Come ho scritto poco fa su Twitter, ma che la volete far dimettere una consigliera regionale così? Ma l'avete vista bene? Sfilare in costume? Le foto ci sono. Nel mio profilo Twitter, Alino Milan, l'ho appena messa la foto di Nicole Minetti che oggi offre il caffè nel nostro bar di Radio 24. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è che parte? Partono effetti sonori. Nel nostro bar di Radio 24... A Mirta Merlino, che saluto, buongiorno, ben svegliata. Che ci fa svegliata a quest'ora, Mirta Merlino? Ciao, buongiorno. Mirta Merlino, conduttrice, a partire da oggi riparte l'aria esatto. Che tira alle ore 11, esatto, in punto? Sì, alle 11. Alle 11. Alle 11 meno 2-3 minuti stamattina. Sulla 7. Mezzogiorno e mezzo, sulla 7. Tutte le mattine. Per i prossimi mesi. Eh certo, l'aria che tira, è l'aria che tira a giudicare dai titoli dei giornali che tra poco vi leggo, è la solita. Saluto anche il nostro bimbo alieno che il lunedì ci fa compagnia. Bimbo alieno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e finalmente buongiorno anche una presenza in rosa, che tutte le mattine qui, no? C'è sempre stato. Presenza finalmente, ma tra l'altro Mirta, lo conosci il nostro bimbo alieno, blogger finanziario economico molto molto da seguire su Twitter, perché dà delle dritte mica male. Allora, io vi voglio leggere i titoli dei giornali. La Polverini sotto assedio per il Corriere della Sera, scandalo Lazio, Polverini da Monti per Repubblica, il giornale, Polverini vicina all'addio, il Messaggero, Lazio nel caos, Polverini da Monti. Mirta, ma che sta succedendo? Ieri ho visto Fiorito, tra l'altro proprio sulla 7, da Luca Terese e Porro. L'inizio è stato spettacolare, ha detto, ma lei è un ladro? No, potranno dire che ho usato i soldi in maniera magari un po' impropria, ma ladro non me ce sento. Questo ha detto. Ecco, l'aria che tira è questa anche. Sì, purtroppo sì. Infatti anche noi stamattina ce ne occupiamo. Nel senso che io stamattina parlo di tasse e evasioni, però facciamo anche un pezzo su questa storia. Verrà in studio Montino, il capogruppo del PD al Consiglio regionale, che come sapete ieri sera... Ha organizzato tutta questa cosa delle dimissioni, sì. Per il momento pare che siano una trentina quelli che si sono già dimessi, e se riuscissero ad averne altri 7 che si dimettono potrebbe cadere tutto. Ma forse quello che sta succedendo, ieri la Polverini è andata da Mario Monti a un certo punto e pare che sia successo questo, almeno così la racconta Repubblica e il Messaggero, che la Polverini ha detto: che faccio presidente, mi devo dimettere? E Mario Monti gli ha detto: che ne so io, questa in maniera molto più istituzionale, faccia un po' lei, non le devo dire io quello che deve fare lei, gli ha detto in pratica. Cioè, ma anche sta storia delle dimissioni, Mirta, ma che vuol dire le dimissioni? Le ha date, sono sospese, erano vere, sono rientrate, forse adesso le ridà ancora. Guarda, io sono rimasta molto colpita dal fatto che lei il primo giorno non sia andata via, perché sinceramente trovo che quello che è successo è veramente l'atto finale della dissoluzione della politica come professione. Cioè, penso che è enorme, cioè, più mettiamo insieme particolari, più capiamo, perché poi ci sono i particolari folcloristici, quelli diciamo proprio da basso impero, no? La festa, le maschere, i maiali, i 1400 euro di mozzarella, questi signori che andavano in un ristorante che si chiama Pepe Nero, che ha 40 coperti e portavano ricevute per 100 coperti, sì. Gente che pagava migliaia di euro per farsi fare delle interviste finte alle TV locali, cioè è il delirio. Però questa secondo me è la parte folcloristica barra trimalcionesca, poi c'è la parte di sostanza, e cioè che siamo in un momento in cui l'Italia fa fatica, tutti tirano la cinghia, la gente vede ogni giorno assottigliarsi la sua capacità di spesa, i pensionati sono tartassati, adesso devono anche restituire un po' di quattordicesimi, certo, pure quello. Nel frattempo, signori come Herb Batman, con grande serenità ci spiegano per loro che avevamo tre ruoli dentro il Consiglio regionale, cioè erano consiglieri, presidenti e capogruppo, portavano a casa la bellezza di 31.000 euro al mese. Ma ieri l'ho visto battagliare, cioè, tra l'altro ha avuto un grandissimo merito, è riuscito in un'ora e mezza praticamente a far dire due parole al suo avvocato, l'avvocato Taormina, l'unica persona in Italia che riesce a zittire il professor Carlo Taormina, Francone Fiorito. Io vorrei chiedere, Bimbo Alieno, esiste uno spread legato alla politica? Non si può misurare, non c'è qualche misuratore che ci fa capire insomma a che livello siamo arrivati, viste le scene anche appunto trimalcionesche affidate ai giornali con le foto dei maiali e delle ancelle? A proposito, le maschere dei maiali vanno a ruba a Roma, così dicono sul Corriere della Sera. Ma lo spread forse si potrebbe fare con i libri di storia, perché sembra veramente di assistere a scene da fine impero, non lo so, da decadenza romana. Non lo so, comunque nel fare questi discorsi, se posso dirvi sinceramente quello che sento, mi sembrate dei bambini non avvezzi alla politica. Perché? Tanto per fare una citazione, no? Citando una delle frasi mitiche di ieri di Fiorito. Ha detto anche questo, ha detto anche che lo champagne, a un certo punto gli ha chiesto lo champagne, e che ne so, dice, al momento sembrava un regalo di Natale evidentemente, cioè è chiaro che non che se lo bevevano appariva un regalo di Natale, cioè ecco, questa è la situazione, Mirta Merlino, cioè regalano lo champagne a Natale e pensano che un regalo di Natale possa essere uno champagne, è questo lo scollamento del mondo della politica dal mondo reale? Io questo appunto è la sensazione veramente fortissima di vedere proprio due mondi paralleli, di vedere da una parte un paese che è in una difficoltà estrema con gente, insomma noi che tutte le mattine per esempio raccontiamo storie vere e passiamo dalla vita dei cittadini, cioè a me mi vengono a raccontare delle storie veramente difficili, complicate, dolorose, gente che non riesce più a pagare le tasse, che pensa seriamente a farla finita, cioè è questa è la sensazione che si ha, cioè di un paese che davvero fa fatica ad arrivare a fine mese, e poi dall'altra parte questo mondo della politica che tra l'altro si autovara delle regole folli nel silenzio generale, perché poi per carità loro sono orrendi, c'è poco da dire, questa insomma la scena che ha dato il PDL del Lazio è una scena mostruosa, però attorno a loro c'era un sacco di gente, certo. Cioè in quel consiglio regionale questi 24 consiglieri del PD che ieri si sono così con grande indignazione si sono dimessi, erano lì mentre ma infatti oggi lo chiederà Esterino Montino, no? Per dirvi una cosa, no? Quando è andata via la giunta Marrazzo erano stati stanziati 1 milione di euro per le spese dei gruppi, nel giro di qualche mese la nuova giunta Polverini ha fatto una serie di modifiche, sì. Quintuplicando i soldi che servivano alla gestione. Sì, lì dicono, in realtà tutto avveniva all'interno dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, no? Col nostro presidente Mario Abruzzese, che è stato nostro ospite la scorsa settimana. E tra l'altro in questo ufficio di presidenza siede anche Isabella Rauti, che è consigliere regionale, che è la moglie di Alemando, ma evidentemente a cena magari parlavano d'altro, infatti, evidentemente a cena. Io però vorrei chiedervi questo, oggi sul Corriere della Sera c'è una notizia che mi ha molto colpito e sulla quale voi che siete divulgatori economici sicuramente potrete aiutarci a capire qualcosa. Allora, il titolo è molto chiaro, benzina, torna il mercato nero. Sono sempre più le persone che sono state prese da carabinieri, guardia di finanza, eccetera, o a rubare taniche di benzina dalle auto, dalle moto in sosta per poi rivenderle, oppure vabbè i classici, le truffe ben più gravi, triangolazioni internazionali, distributori manomessi eccetera. Allora, Bimbo Alieno, la benzina, come stiamo messi? Vabbè, ormai sappiamo che costa quasi come una bottiglia di vino, un litro di benzina, una discreta bottiglia di vino. Torna al mercato nero, dobbiamo essere a questi livelli, a rubarci la benzina per poi rivenderla a prezzo più basso. Ma purtroppo con la questione delle accise il prezzo della benzina è diventato davvero, davvero molto alto. Tra l'altro recentemente, negli ultimi giorni, il prezzo del petrolio al barile è sceso anche abbastanza sensibilmente, ma non ce ne siamo accorti alla pompa, questa non è una novità. Diciamo che sul lato inflazione in generale la questione per il cittadino normale sta diventando sempre più calda, perché la benzina è magari la cosa più eclatante che ci viene facile misurare, perché ogni giorno vediamo il prezzo esposto fuori dai distributori, ma un po' tutti i generi di prima necessità, di prima fascia. C'era l'Istat che qualche tempo fa aveva proposto aveva ipotizzato, più che proposto, di fare diversi panieri per il calcolo dell'inflazione, cioè tenendo conto di panieri in ragione del tenore di vita di una famiglia, perché ci sono famiglie che hanno nel loro paniere di spesa non beni di voluttuario, beni di lusso, sì, ma soltanto beni di prima necessità, perché su questi si sta concentrando un aumento di prezzi non trascurabile. Indifferente. Perché, ma la benzina sta a salire, continua a salire, cioè vedremo sempre una benzina che sale, sempre che sale, questo è. Tra l'altro, sì, insomma, una delle cose da dire sulla benzina è che di questi 2 euro al litro gran parte sono tasse, e sono, e se tu vai a guardare le accise che gravano sulla benzina, uno non ci crede. Le mitiche accise, noi paghiamo, no? Ancora il Vajont, paghiamo, certo, l'alluvione di Firenze. Ma questa è la guerra d'Etiopia che finirà prima o poi, no? Finirà questa guerra d'Etiopia. Adesso no, abbiamo messo giustamente il sisma dell'Emilia, ma insomma uno sarebbe aspettato che, dovendo finanziare il sisma in Emilia, forse qualche tassa del 1950 potevamo pure eliminarla. A proposito di sisma, certo, le emergenze rimangono poi lì a vita. A proposito di sisma in Emilia, ma sapete che sempre il Corriere dice che pare non sia arrivato un centesimo ai terremotati, cioè dice a 2 anni, no, quanto è passato, no? Non è arrivato un centesimo praticamente, cioè la popolazione dice qua che ricostruzione, non abbiamo ancora visto mezzo centesimo di tutto quello che è stato stanziato, non si vede concretamente nulla. Di noi aveva quindi le caratteristiche idonee per ospitare la 6ª edizione del World Urban Forum. È tornata a grande richiesta. La 6ª edizione del World Urban Forum. Lo so, il dramma lessicale del presidente della provincia di Napoli, Cesaro, che parla così del World Urban Forum. È diventato un rap e tutto, ce l'avete richiesto. Mirta Merlino, che da oggi va in onda alle 11 sulla 7 con L'aria che tira, intervista, invita il presidente della provincia di Napoli, fagli fare una disamina economica della situazione. Io, guarda, ascolterei tutta la puntata, la registriamo. Hai ragione, guarda, ci penso. La mandiamo in onda 50 volte. L'hai mai sentito Cesaro, no? Che si incarta lì col pronunciare. Sì, come no. Mannaggia. Ho visto che, tra l'altro, insomma, ormai anche in Campania siamo pronti a un prossimo disastro tipo Lazio. E infatti anche lì la Guardia di Finanza è andata. La Guardia di Finanza, Caldoro difende tutto il Consiglio dicendo che è tutto normale, anche lì consulenze, follie. Pare che anche Reggio Calabria sia sull'orlo della bancarotta, mi pare davvero che insomma se la godono le province, no? Che ce la siamo presa con le province per tanto tempo, ma adesso le province diranno: avete visto che erano le regioni, come dicevamo da tempo, il problema vero degli sprechi in Italia. Certo, il bilancio di questi 42 anni di regioni che erano nate per star vicino ai cittadini, per avvicinare le decisioni al territorio, sembra davvero insomma molto molto difficile da fare, perché alla fine insomma è diventato un luogo di spesa folle in cui insomma i cittadini, appunto, pensiamo alla regione Lazio, hanno chiuso gli ospedali, hanno diminuito i posti letto, hanno aumentato le IRPEF regionali perché pareva non ci fosse un soldo, e poi invece abbiamo capito che dare 100.000 euro a Cranio al consiglio regionali per fare poi vedranno loro come li va, era una cosa normale. Insomma, davvero uno ci pensa se tutto questo gran cancan di cariche, sì. Ma anche insomma, su, io pensavo questo mentre leggevo ieri un po' tutti questo fiume di soldi che arriva nelle tasche di questi consiglieri regionali, ma poi non solo in Lazio, ma in tutta Italia, in Lombardia ci sono delle cifre folli, no? Che i consiglieri regionali prendono, in Sicilia ci sono delle cose pazzesche, ma insomma se pensiamo che il sindaco di una grande città italiana guadagna 2.500 euro al mese ed è un lavoro insomma, molto abbastanza duro, impegnativo, molto chiaro. Invece un consigliere regionale si porta a casa in media dai 14.000 ai 18.000 euro al mese, ma per fare cosa? Sì, no, ci sono queste cose veramente, veramente bizzarre. Bimbo Alieno, ci spieghi in 30 secondi la questione della Fiat dal tuo punto di vista? Perché c'è stato un consiglio dei ministri, c'è stato un incontro tra Marchionne e il governo. Tra l'altro pare che Marchionne abbia detto a Passera quando l'ha incrociato: lo so bene che a te non piacciono le nostre auto, bel esempio di italianità che sei. Così Marchionne al ministro Passera. Che fa la Fiat? Se ne va? Ma guarda, ovviamente si tratta di supposizioni di tipo assolutamente personale, però la sensazione che ho io è che l'intenzione sia quella di lasciare che la parte italiana si disidrati da sola, si secchi al sole, dopodiché ci sia la scusa di poter dire che i numeri giustificano determinate scelte, non è per anti-italianità o per ragioni di mancanza di patriottismo, ma è il mercato, insomma, bellezza, il mercato, si potrebbe dire, perché comunque queste scelte di non investire minimamente in nuovi modelli ormai è una cosa che è consolidata da qualche tempo, da anni direi. Nuovi modelli si fanno, la Fiat li fa in Cina, ha proposto la Fiat a Viaggio, ha proposto modelli nuovi negli Stati Uniti, in Italia ha rimarchiato il mezzo di Chrysler, l'ha rimarchiato Fiat, ma niente di più, non si è proposta con nulla. E appunto la sensazione mia è che, visti i costi e la poca efficienza degli impianti in Europa, perché comunque anche in Serbia l'indirizzo, in Polonia l'indirizzo è quello di andare a ridurre. Sì, l'idea è quella, quindi, cioè, insomma, che si vada un po' a seccare come un fiume che non viene più, no, alimentato, rifornito d'acqua. Si lascia, come diceva Crozza l'altra sera riguardo la concorrenza, la strategia è lasciamo che si sfoghino, facciamo sì che si prendano l'intero mercato lentamente, e a quel punto, come dire, non conviene più, a quel punto non conviene, autorizzati agli occhi di tutti, anche agli occhi dell'uomo della strada, e non sarà scandaloso continuare nelle decisioni che di fatto abbiamo già preso. Allora, questo staremo a vedere, certo, è una situazione ben complicata. Io mi devo fermare qui, voglio ricordare ancora, ringrazio Mirta Merlino per questa sveglia, promettiamo di non farlo mai più, Mirta. Grazie a voi, lo farò con gioia, intanto per adesso mi si svegliano pure i figli, sono già pronta per la colazione. Se riesce a invitare anche Nicole Minetti, guarda che riusciamo a fare un miracolo, si dimette prima la Polverini di Nicole Minetti, sarebbe davvero incredibile. Lei invece sfila in passerella seminuda e torna felice sugli scranni del consiglio regionale. Ma come fai a far dimettere una consigliera regionale così? Ma non si dimetta mai, ma fatela sfilare tutti i giorni, almeno questo è il mio parere, penso anche di Bimbo Alieno, che ringrazio e per essere stati con noi nel nostro bar di Radio 24. Ma siamo pronti alla lettura dei giornali, vi ricordo che alle 8:15 avremo ospite l'onorevole Franco Frattini, ex ministro degli esteri del Popolo della Libertà, per parlare di quello che sta succedendo nella politica, anche con uno sguardo ovviamente alla regione Lazio in primo piano. Parleremo anche di gioco d'azzardo legalizzato, di recente il governo ha provato a mettere una stretta su un tema molto molto caro a molte famiglie italiane, anche perché molte famiglie italiane purtroppo ci devono fare i conti. È un po' una lotta che c'è tra un sistema che garantisce anche molti posti di lavoro, garantisce molto gettito allo Stato, e molti comuni che invece a suon di ordinanze cercano di contrastare quello che secondo loro è un sistema per anche mettere in difficoltà economica molte famiglie. Ne parleremo con due sindaci, il sindaco di Varese e il sindaco di Vicenza, e un rappresentante di Sistema Gioco Italia, che è la federazione di filiera di questo tema, il gioco d'azzardo legalizzato. Questo alle 8.30. Ora da cosa iniziamo? Beh, allora tuffiamoci sulla lettura dei giornali in edicola. È lunedì 24 settembre, i titoli di apertura. Il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì. Tasse sulla casa, processo all'IMU, questo è il titolo di apertura. Per quel che riguarda tutti gli altri giornali, è la Regione Lazio in primo piano. Pare che sia vicina nuovamente alle dimissioni Renata Polverini. Ecco allora i titoli: Corriere della Sera, la Polverini sotto assedio; per Repubblica, scandalo Lazio, Polverini da Monti; La Stampa, Lazio, si dimettono le opposizioni, Polverini da Monti; Il Messaggero, Lazio nel caos, Polverini da Monti. E ormai quasi fotocopia i titoli. Il Giornale, Polverini vicina all'addio. Mentre invece chi apre con Fiat è l'Unità, Fiat il buio dopo il vertice, e Pubblico, il nuovo quotidiano diretto da Luca Telese, lavoratori dipendenti, e c'è un disegno che ritrae Mario Monti, Elsa Fornero, Marchionne e uno che riconosco poco, forse è Corrado Passera, ma non ci giurerei, credo proprio di sì. Comunque, allora, da che cosa vogliamo partire? Siete belli pronti, avete ancora, non so, magari nelle orecchie le parole di Franco Fiorito, che anche ieri alla 7 ha detto: magari mi potranno accusare di aver utilizzato il denaro in maniera un po' impropria, ma ladro proprio non me ce sento. Ecco, avete nelle orecchie queste parole mentre state guidando verso i posti di lavoro, e avete in mente questa politica così distante, questo spreco di denaro pubblico continuo è abbastanza accertato ormai? Ecco, sentite questa, Sergio Rizzo dal Corriere della Sera, pagina 5. Al Senato i bilanci restano segreti. Mistero sui 22 milioni di euro che finiscono ai gruppi parlamentari. Scrive Rizzo: la prima diga è stata battuta e non è stata facile. Alla Camera i gruppi parlamentari dovranno rendere pubblico il loro bilancio, che sarà certificato da un soggetto esterno. Dunque per la prima volta sapremo come viene spesa anche questa fetta di finanziamento pubblico ai partiti. Ci si attende ora il crollo della seconda diga, già quella del Senato, ma cosa farà il Senato? L'assemblea di Palazzo Madama si è sempre tenuta accuratamente alla larga da questo problema, del quale il suo attuale presidente Schifani, a differenza di Gianfranco Fini, ha esperienza diretta. Infatti per 8 anni Schifani è stato il capo del gruppo parlamentare di Forza Italia a Palazzo Madama. Finora però nessuno è riuscito a fare breccia nel muro impenetrabile che copre i finanziamenti ai gruppi parlamentari del Senato. Il 3 agosto dello scorso anno, durante la discussione sul bilancio interno, 7 senatori del PD, tra i quali, oltre al tesoriere del gruppo, c'era anche quello della Margherita Lusi, finito poi nei guai per la distrazione dei rimborsi elettorali del partito di Rutelli, presentarono un ordine del giorno che avrebbe condizionato l'erogazione dei contributi alla presentazione del bilancio, alla sua certificazione e alla sua pubblicità sul sito internet del Senato. Emendamento respinto, bocciato, e dunque rimane tutto segreto. Nel 2012, scrive Rizzo, le previsioni assestate indicano una cifra di 38 milioni e 350 mila euro, 750 mila in più rispetto all'anno precedente, 38 milioni e 350 mila euro che finiranno ai gruppi parlamentari e la cui destinazione è segreta, nel senso che non si riesce a fare breccia su dove vadano a finire e come vadano spesi questi 38 milioni e 350 mila euro. E vabbè, così i dettagli, Sergio Rizzo sul Corriere della Sera a pagina 5. Dopodiché si avvicina mercoledì e voi dite: beh, chi ci frega? No, si avvicina mercoledì e sarà un giorno importante, soprattutto per il direttore del giornale Alessandro Sallusti. Non so se avete letto nel weekend, quando, anzi venerdì scorso, è deflagrata questa notizia sparata in prima pagina dal giornale: rischiano di arrestare il direttore del giornale. La vicenda è un po' complicata e anche semplice, se volete. Quando era direttore di Libero uscì un articolo sul quotidiano che venne ritenuto diffamatorio da parte di un giudice. Ci fu la querela per diffamazione, Alessandro Sallusti ha perso il primo grado, solo che è diventata una vicenda per cui in appello, non avendo anche le attenuanti generiche, non avendo la condizionale eccetera, Sallusti è stato condannato in appello a un anno, credo, e due mesi di carcere. Per un articolo forse neanche scritto da lui, era scritto da uno pseudonimo, ma non è questo il punto più importante. Il punto su cui si dibatte è se sia possibile, certo, condannare per diffamazione, qualora ci sia diffamazione, e quindi è una pena pecuniaria, ma mandare in carcere il direttore di un giornale per un articolo ritenuto diffamante. Bene, mercoledì c'è la sentenza della Cassazione, sentenza definitiva che potrebbe dunque confermare questa pena. E da tre giorni il giornale sta puntando su questa notizia, dicendo: ora serve un decreto d'urgenza da parte del governo per depenalizzare il reato di diffamazione a mezzo stampa. Che solo in Italia porta e può portare al carcere, quando invece in tutto il mondo praticamente ci sono delle pene, appunto, pecuniarie. Oggi Vittorio Feltri in prima pagina del giornale: e adesso serve un decreto salva Sallusti. Scrive Feltri: la solidarietà dei colleghi fa piacere, certi loro articoli in appoggio alla tesi che sia ingiusta la galera sono di grande conforto. L'interessamento di vari politici alla sorte di Alessandro Sallusti, vittima di una vicenda giudiziaria con pochi precedenti, induce a sperare in una mobilitazione generale. Grazie a tutto ciò siamo passati dal più cupo pessimismo circa il destino del direttore del giornale a un minimo di ottimismo. Ma bisogna fare di più, e bisogna farlo in fretta, subito, oggi stesso. Si dà infatti il caso che dopo domani, mercoledì, la sentenza di secondo grado sia esaminata dalla Cassazione. Qui può succedere di tutto: che sia ordinato il rifacimento del processo d'appello, che si stabilisca un rinvio del giudizio finale o che venga confermato, Dio ce ne scampi e liberi, il verdetto in base al quale il giornalista sarebbe condannato a 14 mesi di reclusione senza il beneficio della condizionale, quindi da scontarsi in prigione. E tra l'altro si muovono anche i politici. L'appello di Vittorio Feltri è questo: fare subito un decreto per salvare Sallusti. E pare che Antonio Di Pietro, uno che con il giornale non è che mai stato molto amico, anzi si sono scambiati credo anche varie querele, proprio il leader dell'Italia dei Valori, ha detto: porterò oggi il caso in Parlamento e presenterò una richiesta urgente, un question time in Parlamento. Perché, dice Di Pietro, conosco bene i limiti del diritto di critica e di cronaca, visto che spesso sono stati superati per denigrare me e l'Italia dei Valori, ma proprio per questo ritengo sia giusto che le lesioni inflitte a mezzo stampa vengano risanate. Ma in un paese democratico non si può finire in galera per reati di opinione, nemmeno se ci si chiama Alessandro Sallusti. Comunque staremo a vedere come va a finire questa vicenda del direttore del giornale. Intanto, bella, paciosa, tranquilla, serafica, Nicole Minetti, l'avete vista? Se non l'avete vista, andate sul mio profilo Twitter, Alino Milan, io qualche foto l'ho postata, è per cuori forti, non per cuori debolucci. Nicole Minetti era sfilato, era la notizia che attendevo, la notizia politica del giorno, certamente, domenica, ha sfilato a una sfilata di costumi, e quindi era ben poco vestita, perché sfoggiava appunto costumi. E la straordinaria frase è stata: che problema c'è se sfilo? Faccio un secondo lavoro come molti. Qualcuno ironizza che forse il problema di Nicole Minetti è il primo lavoro. In ogni caso, Nicole Minetti sfila in bikini, così faccio un secondo lavoro come molti italiani. Sostengo anche un settore importante e cruciale, quello della moda, e dunque aiuto il PIL, aiuto l'economia, e poi pare che abbia anche detto: voterei Renzi. E allora, che dire, il Lazio, Renata Polverini si dimette oppure no? Lo so che questa è la domanda che da giorni Sembrava vicina alle dimissioni qualche giorno fa, quando andò al Consiglio regionale, e poi è andata al Consiglio regionale e ha detto: se voi credete in me, credete che si possa fare, si può andare avanti. Le dimissioni erano vere ma sospese, quindi si pensava tutti retromarcia. Poi c'è stato un'improvvisa accelerazione la domenica, perché tutta l'opposizione, i consiglieri d'opposizione hanno detto: vabbè, allora sapete che c'è, ci dimettiamo noi e cerchiamo di raccogliere i numeri per far cadere il consiglio regionale. E ieri è stata una giornata convulsa per Renata Polverini, governatrice del Lazio. Pare sul punto di dimettersi. Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo, ma da un po' di giorni si dice così. Certo, a giudicare dai titoli dei giornali, Polverini da Monti, aria di dimissioni, per esempio, titola a pagina 7, il giornale. E vedete il racconto della giornata di ieri, per esempio, da Ernesto Menicucci sul Corriere della Sera, pagina 2. La Polverini, tentata dall'addio, va a parlare con Monti, travolta dallo scandalo della regione, accerchiata dalle critiche di Confindustria e della Chiesa, scaricata dall'UDC, isolata politicamente dalle dimissioni in blocco dei consiglieri di centrosinistra, la Polverini ora molla. La situazione, avrebbe detto ieri, è insostenibile, non ce la faccio più, mi sento accerchiata. Ora vado da Monti e glielo dico. E c'è stato infatti questo incontro ieri attorno alle 7 del pomeriggio, ieri pomeriggio, improvviso, nel senso che la Polverini era a un convegno medico. C'era anche il presidente della Repubblica Napolitano. A un certo punto ha lasciato questo convegno dopo essersi informata se Mario Monti era disponibile a incontrarla. Mario Monti ha detto sì ed è andata da Mario Monti. Ed ecco il racconto, tra l'altro racconta il Corriere che c'è stato un tentativo di fermarla da parte di Silvio Berlusconi, che l'ha chiamata ancora, ci ha riprovato, c'è già riuscito una volta a dire fermati e ci riprova ora. La Polverini pare che abbia messo come posta per rimanere in palio le dimissioni del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese, nostro ospite la scorsa settimana, quando citò il regolamento 45 volte in mezz'ora di trasmissione più o meno. Ebbene, come è andato l'incontro tra Renata Polverini e Mario Monti? A giudicare dai giornali è andata più o meno così. Leggete Repubblica pagina 3 l'articolo di Mauro Favale, oppure Il Messaggero a pagina 3 l'articolo di Mauro Evangelisti e Alberto Gentili. In pratica Polverini ha chiesto al Premier: e se facessi un passo indietro? E al che Mario Monti ha risposto: guardi, non sono io che devo dirle che cosa deve fare lei. Per quanto mi riguarda, sarebbe la posizione del Premier, ciò che sta avvenendo alla Regione Lazio è inaccettabile. E alla successiva domanda, ma se io mi dimettessi, che succede? Seguiremo alla lettera la procedura di legge che porta alle elezioni, sarebbe stata la risposta di Mario Monti. Ovviamente sono tutti retroscena, è andata così, non lo so. Certo che per Repubblica il Premier gela la governatrice: non devo dirle io cosa fare, ma la situazione è inaccettabile. Mentre per il Messaggero il titolo è più o meno simile: il Premier, non posso essere io a risolvere un problema politico. Repubblica racconta che anche l'UDC con Pier Ferdinando Casini, il suo leader, sarebbe pronta a staccare la spina, nel senso a convincere i propri consiglieri regionali a votare contro, a dimettersi. E quindi credo che se c'è anche l'UDC, credo che tra PD, DV, SEL, Radicali e UDC si arriva a un numero, il numero necessario per legge per far decadere il consiglio regionale. E intanto si profilano ancora le vicende dell'inchiesta e ci sono anche le interviste. Oggi vi segnalo come intervista su Repubblica parla il capogruppo della lista Polverini, parla Mario Brozzi, capogruppo lista Polverini al Consiglio regionale del Lazio. Sono giorni d'inferno quelli che ho vissuto da medico sociale della Roma Calcio, quando a Trigoria giustamente ci davano fuoco alle macchine perché la squadra non si impegnava. Ecco, li paragona a quei giorni lì. L'altro giorno, racconta questo episodio, sulla saracinesca dei nostri uffici alla Balduina, sotto la scritta lista Polverini, ci hanno aggiunto con lo spray: sta mignotta. E poi è arrivata una signora e me ne ha detto di tutti i colori, urlando: con che soldi lo pagate questo ufficio? Io ho spiegato che lo pagavano con i soldi della regione, perché i cittadini abbiano un posto dove far sentire la loro voce. Ma insomma, racconta così questi giorni d'inferno il capogruppo, che poi spiega come avvenivano allora queste dazioni di fondi ai gruppi regionali. Ebbene, dice, beh, intanto i nostri conti sono online. Carlo Bonini di Repubblica chiede, scusi, 886.000 euro spesi in manifesti. Guardi, abbiamo lavorato per un anno, ma è come se fossimo nelle catacombe, decine di iniziative nel territorio, promuovevamo la sanità, gli ambulatori e sui giornali non usciva una riga. E allora il solo modo per comunicare quello che facevamo era stampare manifesti e volantini. E poi, mi scusi, 195.000 euro in ristoranti. Abbiamo organizzato convegni negli alberghi, cene con medici di famiglia, farmacisti, organizzazioni di base. Personalmente in 2 anni e mezzo ho partecipato a 23 cene, posso ricostruire i commensali. In 3 occasioni c'era anche una delegazione cinese. Insomma, respinge questo e poi dice: Abruzzese pagava, cioè il presidente del consiglio regionale, e io non chiedevo. Ed è questa la cosa incredibile, cioè il sistema funzionava così. So che può sembrare strano, ma le cose funzionano in questo modo. Cioè, lei vuol dire che si accorge del denaro assegnato al gruppo quando vi arriva sul conto? Ebbene sì, funziona così. In ogni caso non ho mai avuto modo di ragionare di questa cosa fino a questi giorni. Ricevevo una cifra che ritenevo più che congrua e cercavo di utilizzarla al meglio. Stampatevela, cari ascoltatori, nella testa questa frase: non ho mai avuto motivo di ragionare su questa cosa fino a questi giorni. Ricevevo una cifra più che congrua e cercavo di utilizzarla al meglio. Ecco, è questo stupore per il quale la gente ora non ne può più dire: ma com'è possibile che nessuno se ne sia accorto? Come scrive il Corriere della Sera, così i partiti decidevano come dividersi i soldi, anche il PD, l'Italia dei Valori, d'accordo per passare da 1 a 14 milioni nel finanziamento ai gruppi. Com'è possibile che nessuno se ne sia accorto? Com'è possibile che nessuno abbia detto niente? E infatti Daniela Santanchè tuona sul Corriere della Sera, in un'intervista pagina 2 e 3: ho deciso di andare ad Arcore e chiederò a Berlusconi di chiudere questa fase del PDL. Questo PDL è da chiudere. La Polverini certo non è accusata di nulla, quindi non dovrebbe dimettersi. Ma il problema, anche la Regione Lazio, è una vicenda che nasce da una guerra per bande tra ex AN e ex Forza Italia, una roba bassissima di lestofanti, malfattori, personaggi assurdi che si sono infilati nell'immobilismo del partito per fare i loro sporchi affari. Gente che io nemmeno conosco, come quel Battistoni o quell'altro tipo che chiamano Batman, ma si rende conto? Io dovrei perdere la faccia per colpa di un furbastro di provincia che si fa chiamare Batman? E tuona così Santanchè, che dice: dirò a Berlusconi di azzerare tutto il Popolo della Libertà. La stessa richiesta che fa Alemanno. Intanto ieri Fiorito è riapparso alla 7, da In Onda, e ha detto che quella festa, coi maiali, le ancelle, le puelle, il mojito, la vodka, nella quale è intervenuta anche la governatrice Polverini, di passaggio, forse Fiorito ha detto: ma che è pagata coi soldi del consigliere Carlo De Romanis? E voi ci credete? Andate a vedere l'associazione Giovani PPE. Insomma, ha fatto capire che può darsi che quella festa coi maiali l'abbiamo pagata pure noi. Ecco, ve lo dico, così, se succede anche questo, dice, almeno magari un mezzo invito ve l'avessero fatto, e invece no. Festa coi maiali, forse pagata da noi. Tuona anche la vedova di Almirante, donna assunta, intervistata dal Quotidiano Nazionale: il mio Giorgio girava in 500. Ormai c'è un degrado tragico e la Polverini, che ha scelto questo benedetto signor Fiorito, doveva rendersi conto di quello che succedeva. Un padrone di casa, anche quando tante persone che l'aiutano, si rende conto se determinate cose funzionano o meno. E riguarda la festa con i maiali, dice: non sanno più come divertirsi. Nessuno si rende conto delle difficoltà della povera gente. Io che giro l'Italia, invitata a destra e a manca, vedo la miseria vera che c'è. Una cosa impressionante. Questa donna assunta, certo, altri tempi. trovate sui giornali molti articoli dedicati anche alla Fiat, perché c'è stato questo incontro tra i vertici della Fiat e il governo questo sabato o venerdì. Bene che la Fiat resti qui, ma adesso è ora di investire. Questo è ciò che chiedono politici e sindacalisti nel titolo di pagina 6 della Stampa. Vi segnalo sul Secolo XIX un'intervista al sindaco di Torino, Piero Fassino. Adesso Fiat faccia chiarezza sui modelli. È una crisi abnorme, è inutile processare Marchionne. Tra l'altro Fassino nell'intervista di Alberto Quarati dice: è bene che ci sia un colloquio, è bene che Fiat e governo si parlino. Il Lingotto però non può rimanere in attesa degli eventi. Direi che sono state confermate le cose che Marchionne e Elkan mi dissero 15 giorni fa, prima di questo incontro. Un incontro che intanto è positivo, visto che è giusto che governo e Fiat si siano parlati. Ma ora sono due gli interrogativi aperti, secondo Fassino. Primo, come Fiat si prepara alla ripresa? E supponiamo che arrivi nel 2014, e dunque parliamo di scelte che devono essere fatte ora. E il secondo nodo che va sciolto è capire su quali stabilimenti verrà distribuita la produzione. Ci aspettiamo che nei prossimi incontri col governo questi temi vengano approfonditi. Tra l'altro c'è un retroscena dell'incontro, come racconta Paolo Griseri su Repubblica, pagina 10. Marchionne e Passera non se le sono mandate a dire, secondo questo retroscena, in questo faccia a faccia Fiat governo: caro Corrado, so bene che a te le mie macchine non piacciono. Così Marchionne al ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. È stato un duello verbale, secondo Griseri di Repubblica, è stato acceso del tutto involontariamente dal ministro Fabrizio Barca, che a un certo punto ha detto: caro Marchionne, lei ci sta dicendo che la Fiat non sta perdendo quote di mercato, ma i dati dicono il contrario, tutti i dati, anche quelli degli osservatori indipendenti. E allora ecco la replica di Marchionne: caro ministro, l'osservatore indipendente di cui lei parla non è molto indipendente, anzi è controllato da Volkswagen, si fidi, so quel che dico, i dati reali sono quelli che gli ho fornito io. A quel punto il clima si è un po' surriscaldato dal punto di vista verbale, ed ecco che Passera dice a Marchionne: caro Sergio, i dati saranno quelli che avete voi, ma resta il fatto che il problema di fondo non cambia. Qui le macchine non le vendete. Perché? Ed ecco la replica molto piccata di Marchionne: è vero, qui non le vendiamo, ma nel resto del mondo sì. E poi lo so che a te le mie macchine non piacciono. Non sei proprio un esempio di italianità. Così Marchionne a Corrado Passera: le nostre auto non ti piacciono, bell'esempio di italianità che sei. Questo sarebbe successo nell'incontro Fiat-Governo. Intanto vi segnalo sul Sole 24 Ore due interessanti articoli. Il primo è un'inchiesta molto approfondita sull'IMU, tasse sulla casa, processo all'IMU, la tassa sicuramente una delle più odiate dagli italiani, insieme al canone della RAI. A pagina 2 e 3, IMU sul banco degli imputati per imprese e prima casa. Cristiano Dell'Osto e Giovanni Parente fanno un'inchiesta su appunto questa tassa sugli immobili. Primo capo d'accusa: non è giusto pagare l'IMU sull'abitazione principale. Secondo, le rendite catastali sono vecchie e superate. Terzo, il prelievo sui capannoni aumenterà del 60% rispetto all'ICI e quello sui negozi raddoppierà. Queste sono le imputazioni all'inizio di questo vero e proprio processo, per il quale il Sole 24 Ore in due pagine, pagina 2 e 3, chiede tutte le risposte agli esperti per capire come e cosa fare sull'IMU. A proposito sempre di Sole 24 Ore, attenzione, c'è un settore industriale in cui in Italia nessuno ci supera. Nessuno ci supera, siamo i primi al mondo, primeggiamo senza dubbio, lo certifica ancora il Sole 24 Ore anche questa volta, a pagina 22, la produzione di denaro falso. Siamo primi al mondo, in assoluto, imbattibili, impareggiabili, inarrivabili. Denaro falso, è vero, i sequestri sono in calo, ma racconta Guido Plutino tutti i dettagli a pagina 22. Attenzione, perché la banconota più taroccata è quella da 20 euro e gennaio è il mese più pericoloso. Ora non ho letto nel dettaglio l'articolo, non ho capito perché, però insomma gennaio è il mese più pericoloso per quel che riguarda i taroccamenti. Forse sotto Natale, non lo so, circolano più banconote, oppure ne stampano di più. Vorrei concludere l'ultimo minuto con il sindaco di Milano, Pisapia, che ha lanciato una frase che farà certamente discutere sull'onda di quello che ha detto Nichi Vendola, eccetera. Lo fa in un'intervista a Pubblico, il quotidiano uscito da una settimana. Le coppie gay devono potersi sposare, e questo vabbè è già diciamo non era nuova la posizione di Pisapia, ma devono poter adottare figli. Il sindaco di Milano Pisapia: sì alle adozioni per le coppie omosessuali, meglio avere dei genitori che non averne affatto. Così leggo il titolo del Messaggero, ma anche Repubblica: meglio bimbi adottati da gay che soli. Così Pisapia lancia la nuova foto di Vasto su Repubblica. Oppure il Giornale: lo schiaffo di Pisapia alla Chiesa, bimbi in adozione anche ai gay. O La Stampa: Pisapia apre ad adozioni gay, i bimbi devono avere genitori. Questo Pisapia. Devo leggere perché è lunedì. Gente pallosa che mi stressa col calcio quest'anno, sport noioso più che mai. Va bene, vi leggo il titolo della Gazzetta: Milano a rotoli. Immagino che si riferiscano al Milan e all'Inter. Che poi, insomma, vedendola così, è un titolo che, vedendo il bicchiere mezzo pieno, è una notizia anche che porta mezza soddisfazione. Comunque il titolo della Gazzetta è questa: Milano a rotoli. L'onorevole Franco Frattini, che è stato ministro degli esteri nel governo Berlusconi ultimo. Onorevole, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, ovviamente tutti i giornali aprono ancora su quello che sta succedendo nella regione Lazio, dove le chiedo direttamente a questo punto, questo balletto: si dimette, non si dimette? Dovrebbe dimettersi la governatrice Polverini, secondo lei? Ma guardi, dovrebbero essere attuate in tempi estremamente ristretti quelle contromisure che credo tutti attendano, eliminare per sempre questi sprechi e queste porcherie, espellere dai partiti politici coloro che si sono macchiati di queste malversazioni col denaro dei cittadini, dare la dimostrazione che la politica è in grado di autoregolarsi. Vede, io non credo che queste crisi si risolvano a colpi di dimissioni del Presidente della Regione. Il Presidente della Regione ha il dovere di guidare un drastico ridimensionamento di questo sistema. Ci sono dei vitalizi nelle regioni, tra cui la Regione Lazio, in cui si prende di pensione molto più di quello che si versa. Cioè, non è il sistema cosiddetto contributivo, in cui io nella mia vita lavorativa verso 100 sì, e mi prendo la pensione per 100, io verso 40 e mi prendo lo stesso 100. Allora, questa cosa che aspettiamo a farla subito? Questo lo deve fare il Consiglio regionale, bisogna incidere sullo statuto della regione. Queste sono le misure. E poi io mi permetto di immaginarne un'altra che forse non è assurda, anzi, noi abbiamo tante volte detto che chi malversa, chi usa il denaro per la criminalità organizzata, ad esempio, tutto quello che viene recuperato viene incamerato immediatamente all'erario dello Stato. Perché non fare la stessa cosa? Non solo negli amministratori locali, il caso Lusi, il caso Penati, il caso Fiorito, ci sono tanti casi in cui a titoli diversi esponenti politici che avevano nelle mani denari dei cittadini lo hanno usato per se stessi. Dovrebbero restituirlo. Ma no, immediatamente andrebbe avvocato all'erario dello Stato. Non voglio paragonare ovviamente questi reati con quelli della mafia, però per la mafia si è detto e si è fatto: quando c'è un provento illecito, questo viene prima confiscato, prima sequestrato e poi confiscato, sì, e affluisce direttamente all'erario. Molto più in piccolo, ovviamente, questi non sono reati mafiosi, però è una proposta che si può fare. Colpiscono talmente tanto che se io mi sono messo in tasca 1 milione di euro dei cittadini, perché bisogna aspettare tanto tempo? Lo Stato sequestra, confisca, avoca al patrimonio dello Stato e una piccola parte, qualcuno dice, lo darò spontaneamente indietro. Ma perché aspettare che deve darlo? Però, onorevole, mi colpisce, lei dice, secondo lei la Polverini può andare avanti, anzi è quella che deve guidare. Deve guidare se ha il coraggio di fare tutte quelle cose che ha annunciato di voler fare e qualcosa in più. Io ho detto sta cosa dei vitalizi perché mi rendo conto che quando uno è abituato, io mi prendo la mia pensione, io personalmente, perché io sono un magistrato, quindi io ho la mia pensione, non parlo di un caso mio, quindi, però mi rendo conto che uno che si è abituato a godersi la pensione pagando molto di meno di quello che riceverà, insomma, gli piace tenersela, però la Presidente Polverini su questo darebbe un bel esempio. Tutte le regioni, dalla prima all'ultima, dovrebbero stabilire che, per esempio, il vitalizio è rideterminato così. Col sistema contributivo. Ci sono tante cose che si possono fare subito. E poi, lo dico francamente, abbiamo in Parlamento una legge anticorruzione. Questo è il momento, senza giustizialismi, di approvarla questa legge, perché se c'è un fenomeno tanto diffuso in tante regioni, vedo con preoccupazione che si va a guardare in altre regioni, io mi auguro che non ci siano scandali paragonabili a quello del Lazio in altre regioni italiane, me lo auguro per amore di patria e di istituzioni, diciamo così, ma è il momento che una buona legge anticorruzione, come dire, fa bene a tutti. Sì, e se in questa legge poi ci scriviamo anche che il magistrato non può avere discrezionalità, ma deve essere vincolato a dei parametri, a delle regole precise, allora si evitano anche quelle ipotesi fumose in cui, che so, che cos'è l'influenza illecita, lo decide il singolo magistrato, allora c'è quello di Catania che la valuta in un modo, c'è quello di Udine che la valuta in un altro. Allora, riducendo anche in questo la discrezionalità, una buona legge anticorruzione bisogna farla. Però non crede che continua la Polverini, sembra quasi un rifarsi il trucco e andare avanti e pensare che possa andare bene così per la gente che invece chiede dei passaggi un po' più traumatici. Beh, certo, se lei si limiterà a rifarsi il trucco sarà una cosa, come dice lei, ma se lei in realtà dimostrerà che nel momento in cui si è resa conto di quello che stava accadendo in un altro organo della regione che non dipende, che non è ai suoi ordini, il Consiglio regionale, come ormai credo tutti gli italiani hanno capito, è autonomo. Però ci sono anche i consiglieri della lista Polverini, cioè non poteva non sapere. Però questi consiglieri della lista Polverini, se i soldi se li tenevano per loro, e io questo non lo so affatto, probabilmente non avevano nessun motivo per raccontare alla loro presidente che si tenevano i soldi per le feste e per i festini, quindi come dire, bisogna andare a guardare tutti gli aspetti. Io ripeto, se si fa il trucco come dice lei e basta, allora non va bene, ma se a queste misure, eliminare ed azzerare completamente questi compensi extra o extra extra, diciamo così, ed in più fare delle riforme strutturali, forse da uno scandalo gravissimo. Io ho parlato, si figuri, di un abisso di immoralità, infatti. Qualcuno mi ha detto che ero stato pure eccessivo, io non credo di essere stato eccessivo, però se da questo venisse uno scatto forte di reni per ripartire, questo sarebbe anche di buon esempio per regioni italiane che magari potrebbero essere domani sotto la lente d'ingrandimento e che dicono, prima che tocchi a noi, perché non lo facciamo autonomamente? Però perché tutto questo si fa quando interviene la magistratura? Cioè fino a 10 giorni fa nessuno si era accorto che succedeva questo in Lazio perché e nelle altre regioni. Perché ci sono grandi fenomeni di malaffare purtroppo e di piccolo cabotaggio, perché questi sono ladri di polli, insomma, si prendono centinaia di migliaia di euro e questo fa arrabbiare la gente, ma nella sostanza sono proprio rubagalline, sono proprio ladri di polli. È questa immoralità talmente radicata a livello in particolare di queste amministrazioni territoriali, ma non soltanto purtroppo, che questo accade e ognuno copre l'altro. Questa è la cosa, perché quando abbiamo addirittura i registri chiedo e ricevo, addirittura ho letto su un giornale, cioè, io vado dal mio capogruppo e gli dico ho bisogno di Tizio e quello firma l'ordine di pagamento, come se fosse succedeva, un banco, succedeva così. Senta, ma le chiedo questo, onorevole Frattini, qualcuno ha parlato di guerra tra bande, tra ex AN e ex Forza Italia, è il momento di sciogliere il Popolo della Libertà, ha finito la sua missione? Guardi, è il momento di rivedere profondamente i contenuti dell'azione politica del Popolo della Libertà. Noi stiamo da settimane, forse da mesi, arrovellandoci su queste diatribe tra ex di qua, ex di là, e stiamo perdendo di vista la sostanza, cioè i contenuti. Qual è l'identità? Io ho cominciato nella mia vita a fare politica, prima non avevo fatto mai politica, ero e sarò di nuovo uomo delle istituzioni un domani, in un partito liberale che fu Forza Italia nel 94, ma insomma lì c'era una cosa chiara, meno Stato, meno burocrazia, meno tasse, più efficienza, più merito, tutti questi parametri, tutti questi criteri, li vogliamo ancora confermare? Oggi abbiamo un parametro su cui discutere, vogliamo più Europa o meno Europa? Vogliamo, come dice qualche sconsiderato, fare il referendum per decidere se stare oppure no dentro la zona euro? Oppure diciamo che l'Europa va avanti senza sì, senza ma. Ma quindi concretamente cosa vuol dire? Cioè il PDL dovrebbe sciogliersi proprio? Dovrebbe a mio avviso avviare una sessione programmatica solo sui contenuti, e probabilmente al nostro interno non ci troveremmo tutti d'accordo. E allora lì ci sarà una discussione politica. Vede, noi siamo avversari politici del Partito Democratico. Ma se nel Partito Democratico c'è un Renzi che dice la mia è l'agenda di Monti, e Bersani dice io mi alleo con Vendola che vuole uscire dall'euro e fermare l'integrazione europea, quello è un dibattito politico su contenuti. Sì. Io vorrei un dibattito politico su contenuti, non tra ex AN ed ex Forza Italia, che poi sono categorie anche abbastanza superate, e quindi la cosa fondamentale è tornare alla sostanza dei problemi. Mi dica in flash due domande finali: lei vuole fare, aspira a diventare segretario generale della NATO come qualcuno? Ma guardi, come sempre accade in questi casi, è già un onore ed un privilegio essere stati indicati dal governo italiano. Ci sono delle regole, ci sono dei negoziati internazionali che saranno importanti e complessi, e ovviamente io guardo con rispetto a tutto quello che accadrà. E infine mi dica, non si sottragga questa domanda, Nicole Minetti che sfila, l'ha vista? No, le foto? No, io penso che sia una porcheria l'averla candidata, che sia una porcheria che dinanzi al segretario politico Alfano, che la invita a dimettersi, lei non si dimette, non so che cosa io debba dirla di più. Insomma, ne parli, non so, la candidata Berlusconi, però Formigoni, Berlusconi. Sono stati gli errori di selezione delle candidature che non dovremo più rifare, a cominciare da una legge elettorale che non deve più consentire i cooptati, quelli scelti per meriti che tutto sommato purtroppo non hanno, e invece prendere persone che abbiano dimostrato. Vede, io ritorno alla mia esperienza, nel 94 furono candidate persone nella prima leva di Forza Italia, sì, che si chiamavano Urbani, Martino, Marzano, tutte messe Tremonti, da parte, tutte, il professor Rebuffa, Tremontino, il professor Pera, santo cielo, chapeau, erano persone che nella vita avevano dimostrato di essere qualcosa. Infatti a parte Tremonti sono state fatte fuori tutte, diciamo. Però vede, questa è la grande tristezza. Io sono sopravvissuto, non so per quanto, ma insomma mi ritengo tra quelli, sa. Io voglio dire, ho cominciato a 23 anni a fare il magistrato e quello è il mio concorso, me lo sono guadagnato, non me l'ha regalato nessuno. Vabbè. Però che dire, è triste vedere che nella politica la cooptazione rischia di prevalere, ma mica solo in casa nostra. È questa legge che ha fatto cooptare a tutti i segretari di partito che c'erano nel 2008, praticamente chi volevano loro. Intanto la ringrazio, buona giornata a lei, Franco buongiorno. Frattini del Popolo della Libertà, ex ministro degli esteri, per essere stato con noi. Avete sentito come ha parlato della Regione Lazio e anche degli scandali di porcherie avvenute negli ultimi anni. Ci fermiamo, ma noi parliamo poi tra 5 minuti di un problema che riguarda molte famiglie italiane, affligge anche molte famiglie italiane: il gioco d'azzardo legalizzato. Il governo ha provato a mettere delle misure stringenti in un decreto sulla salute, è saltato tutto, e sul tema gioco d'azzardo legalizzato ora ci pensano i sindaci, che vogliono legiferare nelle loro città a cercare di mettere dei paletti per arginare questo fenomeno. C'è chi ci sta, c'è chi non ci sta, ci sono ricorsi al TAR. Di recente il governo ha provato nel decreto salute a mettere, come si suol dire in questi casi, una stretta su questo fenomeno, ponendo per esempio un limite prima di 500 metri, poi sceso a 200 metri, poi sparito, un limite entro il quale mettere, il divieto entro il quale mettere delle, così, gli apparecchi videopoker dalle scuole, una distanza minima che è saltata. Ecco, si è subito accusata la lobby, le lobby che sono riuscite a far cambiare idea al governo Monti. Parliamo di un fenomeno che riguarda moltissime persone, moltissimi italiani, anche un gettito fiscale notevole. Cercheremo di dare anche qualche numero. Intanto lo facciamo con due sindaci: il sindaco di Vicenza, Achille Variati, del Partito Democratico. Buongiorno, sindaco. Buongiorno. Saluto anche il sindaco di Varese, della Lega, Attilio Fontana. Buongiorno. Buongiorno. Voi siete due sindaci, che con colpi di ordinanze cercate di contrastare questo fenomeno. Con voi c'è, lo saluto, Massimiliano Pucci, che è presidente di Assotrattenimento e vicepresidente di Sistema Gioco Italia. Buongiorno, buongiorno Pucci. Buongiorno a tutti. Allora, intanto i Pucci, le faccio sentire i sindaci. Sindaci Variati, lei per esempio ha fatto una serie di ordinanze, credo che il TAR però abbia dato torto al comune dicendo che limitate la libertà imprenditoriale di questo settore. Perché lei si accanisce molto con ordinanze contro questo gioco d'azzardo legalizzato? Dunque, innanzitutto il TAR non ci ha dato torto, ha solo dato una sospensione in attesa del giudizio di merito che avverrà fra qualche mese. E il perché ci siamo impegnati come amministrazione è molto semplice. Vicenza è una città di 115.000 abitanti circa. Aveva un 2-3 sale gioco, sale scommesse, vabbè. Ora, negli ultimi, diciamo, 18 mesi, le sale gioco sono diventate 24. Cioè, mentre chiudono negozi di abbigliamento, bar e quant'altro, perché la crisi, si sa, si fa sentire anche molto sul commercio, sì, qui c'è un'esplosione. Addirittura alcune pubblicità apparse nella mia città, che poi io a questo punto ho vietato, almeno nelle affissioni pubbliche, dicevano: ma senti, a questo punto non ti resta che giocare. Visto che la crisi, però, visto che c'è la crisi, non ti resta che provare la fortuna. Quei pochi soldi che ti sono rimasti, giocali. Ora, noi sappiamo che nel calcolo delle probabilità la vincita è quasi esclusa, voglio dire. E quindi questo fenomeno del gioco sta colpendo sostanzialmente il tessuto più debole della nostra comunità. Lei lo vedete in concreto, con quella frase che si usa, si rovinano le famiglie, lo potete tastare in concreto? Guardi, c'è stato un fatto che ha fatto molto riflettere la mia comunità, un extracomunitario, ma ora cittadino italiano, che vive e lavora a Vicenza da tanti anni, una persona per bene, diciamo, ad un certo punto si è messo in stazione e ha messo la mano destra nella rotaia e per farsi tagliare la mano, quella mano che lo ha portato a giocare, sì, a rovinare, sì, lui, a rovinare la sua famiglia, ha messo la mano sulla rotaia affinché il treno gliela tagliasse. Cioè, per non giocare più, vabbè, questo però è un episodio. Vabbè, sono momenti, però questo fa capire anche come questo fenomeno sia tutt'altro che romantico rispetto a quel signore ben vestito che gioca alla roulette o al, beh, facciamo una partita a poker tra amici. No, qui c'è una ludopatia che può diventare una vera e propria Allora, ma lei lo tocca con mano? Vorrei sentire anche dall'altro sindaco, il sindaco Varese Attilio Fontana, anche lei fa iniziative simili o comunque avete fatto ricorsi al TAR. Perché? Cosa no, vuole... Noi li abbiamo subiti i ricorsi al TAR, purtroppo il TAR nel caso nostro ci ha dato torto, siamo perfettamente coscienti di questo fatto, ma un po' ne eravamo coscienti anche prima, ma credo che il nostro fosse un tentativo di evidenziare il problema che può nascere dalla diffusione, dalla proliferazione di queste sale gioco. È chiaro che ormai, essendo stati anche limitati i limiti, diciamo, di vincita, sostanzialmente sono assolutamente equivalenti a dei piccoli casinò. Noi sappiamo, anche perché abitiamo, la nostra città è vicina a un grande casinò come quello di Campione, i fenomeni che sono connessi al gioco d'azzardo, sia per quanto riguarda i cambiasoldi, sia per quanto riguarda un certo tipo di malavita che prospera intorno alle case da gioco, ma soprattutto siamo assolutamente coscienti della grave situazione che può derivare a livello sociale da queste case da gioco diffuse in maniera assolutamente esagerata. Cioè, beh, insomma, queste sono accuse forti alle quali appunto Massimiliano Pucci vorrei desse una risposta, perché Presidente Pucci, qui la questione è questa: ci sono molti italiani che giocano, voi avete anche tante persone come filiera che sostenete, come dal punto di vista dei posti di lavoro, date anche allo Stato tantissimi soldi, perché ovviamente lo Stato prende le tasse su questi e magari ci dica anche quanto, però le accuse sono quelle, rovinate le famiglie e questi metodi di giocare poi creano allarme sociale, creano situazioni sociali molto molto gravi. Lei che replica? Allora, io non ho sentito molto bene l'intervento del sindaco di Vicenza, ma bene quello del sindaco di Varese. Allora, partirei innanzitutto per rispondere al sindaco di Varese del perché nel giro di 2 anni siamo passati da 4 sale a Varese a 22 sale. Pochi lo sanno, la politica a Vicenza, a Vicenza da 4 sì, da 4 no, il sindaco di Varese che all'improvviso si è no di Vicenza accorto, era il sindaco di Vicenza, da 4 a 22. Basterebbe aver fatto politica come hanno fatto loro negli ultimi anni per sapere che il decreto Abruzzo ci ha obbligati a tirare fuori 880 milioni di euro per acquistare questi 50.000 e passa diritti di QLT, che sono questi diritti che vengono poi installati in queste 9 sale, quindi da una parte lo Stato ci obbliga nel giro di 48 ore a mettere mano al portafogli per finanziare la ricostruzione dell'Abruzzo e dall'altra parte poi ci obbliga a non installare questi prodotti che abbiamo acquistato. Detto questo, perché credo che sia onesto, perché noi non siamo un'imprenditoria libera, nel senso non siamo un'imprenditoria che decide di tirare fuori dei prodotti e metterli sul mercato, noi tiriamo fuori i prodotti che ci obbliga lo Stato a tirare fuori, quindi in sostanza addirittura prima la categoria che rappresento io ci chiamavano addirittura terzi incaricati per la raccolta, quindi siamo dei veri e propri dipendenti. Ma questo collegamento con l'Abruzzo me lo rispiega, non l'ho capito bene. Cioè... Me lo spiego benissimo, è stato questo fenomeno di questa proliferazione di sale giochi che c'è stato negli ultimi 2 anni, sono queste sale giochi, come ha detto prima il sindaco, trasformate in quasi dei mini casinò, che non è vero, sale controllatissime, che sono alla luce del giorno e tutto, sono sale che installano prodotti che noi siamo stati obbligati a comprare, ad acquistare all'indomani del decreto Abruzzo, all'indomani del terremoto dell'Abruzzo. Ma perché obbligati a comprare? Obbligati perché obbligati, non con la pistola in testa, ma simile. Uscito fuori questo decreto Abruzzo ha stabilito che veniva tirato fuori questo prodotto che si chiama Videolotteris e che i 10 concessionari dovevano comprare questi titoli, 50.000 titoli mai richiesti dall'imprenditore. Quindi nel momento in cui li avete comprare, abbiamo dovuto anche installare, è il minimo, tanto è vero ne abbiamo ancora tantissimi a magazzino perché sul territorio si stanno creando queste situazioni come denunciate oggi dai due sindaci. Io vorrei dare questa cifra, vorrei ripartire al sindaco di Vicenza Achille Variati, l'anno scorso 2011 si è giocato per 79 miliardi di euro su questo lo Stato prende una percentuale che va dal 4 al 12%, dipende dai giochi. Facciamo una media per eccesso del 10%, sono 7,9 miliardi di euro che lo Stato prende in tasse. Non è questa la vera lobby? Cosa vi mettete in testa di combattere? Cioè, questi sono soldi, 8 miliardi che vanno nelle casse dello Stato, Sindaco Variati. Ma veda, a cosa serve la politica? Ovviamente la politica con la P maiuscola. Serve a perseguire il bene comune. Ora, io non penso che vi debba essere alcuna demonizzazione nei confronti degli imprenditori che aprono questo tipo di attività. Ma lo Stato sì, ha, secondo me, l'obbligo etico di regolamentare queste attività. Quindi lo Stato dovrebbe rinunciare, però. Certo che sì. Cioè, pare che il vero quattrini si fanno sulla pelle dei più deboli, perché questo è dimostrato. Sulla pelle dei più deboli, no, lo Stato a quel punto si ferma. Ma lo sa che pare che in Consiglio dei Ministri, quando Balduzzi ha proposto questo limite alle scuole, il primo sia stato Grilli, il ministro del Tesoro, a dirgli: ma guarda che così, cioè, mettiamo un limite, ma ci perdiamo un sacco di soldi perché in tasse. Quindi pare che la prima, neanche le lobby, come si suol dire, ma anche all'interno del governo abbiano fatto due conti a dire: ma qui ci rimettiamo dei soldi. Cioè, sono... io penso che sia proprio così. Io non credo molto alla storia delle lobby. Io penso che in questo momento difficile per la finanza dello Stato, quei quattrini che lo Stato ricava da queste attività fanno comodo. Però non tutto ha un prezzo, mi scusi, ci sono delle cose che non possono essere vendute. Io, guardi, sono d'accordo con lei, basta mettersi d'accordo, sono d'accordissimo con lei che non tutte le cose debbano avere un prezzo. Mi faccia sentire Maria Grazia dalla provincia di Bologna, ci ha chiamato, abbiamo scoperto, ci dice che ha un bar, è una proprietaria di bar. Buongiorno Maria Grazia. Maria Grazia non c'è, ci ha abbandonato. Allora vorrei tornare dal sindaco Fontana, sindaco di Varese. Ha sentito Massimiliano Pucci a dire: siamo stati obbligati anche ecco, da mettere... Solo obbligato avrei dei dubbi. Obbligato, diciamo, nel senso, ci ha spiegato questo meccanismo. Invitati, e credo invitati. Che sia stato un invito recepito in maniera entusiastica da parte di questi imprenditori. Ma lasciamo stare queste cose, perché io con il governo non ho assolutamente nulla a che fare. Ricordo anche a livello di tassazione quella famosa questione che per un po' di tempo venne dibattuta sui giornali di un'evasione di 96 miliardi, sì, che poi non si è mai saputo come sia finita, ma che lascia qualche sospetto anche sul fatto c'è un processo in corso. Che lascia qualche dubbio sul fatto che vengano legittimamente pagate tutte le tasse su questa questione. Quello che è certo è che se il ministro Balduzzi, che mi sembra sia un illustre scienziato, ha fatto questa proposta, evidentemente credo che un fondamento a quello che noi diciamo ci sia, perché o è impazzito il ministro e non credo, oppure abbiamo forse un po' ragione nell'essere preoccupato per il Ma io dico, mettere un limite, adesso obiettivamente, lei da sindaco, mettere un limite a 200 metri da una scuola, e uno fa 300 metri con il motorino e va, se proprio... Che queste sono dei tentativi per cercare di evitare che almeno si accumulino nelle zone più imbarazzanti della città, che rimangano tutte accumulate nel centro, che rimangano tutte in una zona che più facilmente raggiungibile. È chiaro che ce ne rendiamo perfettamente conto che 200-300 metri sono palliativi, diciamo, sono dei tentativi per rendere un attimino più difficile lo sviluppo di questa situazione. Lei capisce che comunque il discorso che lei faceva non fa una grinza da un punto di vista dei conti dello Stato. Lo Stato ci guadagna. Peccato che però ci sia una forma indiretta e occulta ulteriore di tassazione di cui i cittadini inconsciamente sono vittime, e purtroppo in questo caso si rischia di andare a colpire la parte più debole della popolazione. Allora, è una tassa che va a gravare sui più deboli e che è neppure riconosciuta come tale. Allora, vorrei chiedere, Massimiliano Pucci, voi oltre che essere accusati di rovinare famiglie, siete accusati anche di essere una lobby potentissima che potete far cambiare idea al governo, come è successo col governo Monti. Che tipo di pressioni avete fatto sul governo? Guardi, mi viene da ridere. Innanzitutto mi viene da ridere perché ha detto giustamente in Vicenza questa... lobby non esiste, è una questione di coerenza, e qui non è stata contestata. Partiamo dal presupposto che il decreto sta facendo ancora il suo iter. Sì. Qui non è stato contestato i 500 metri quadri, i 500 metri di distanza davanti alle scuole. Qui è stata contestata una costruzione di un decreto che non prevedeva solo i 500 metri dalle scuole, ma in sostanza obbligava le slot a uscire fuori dalle città, le slot di Stato, non i videopoker, e a relegarle in zone, diciamo, autostradali, perché era impossibile installare una slot con tutti quei punti sensibili. Però ci tengo a precisare una cosa, perché io sto parlando in questa veste a nome di Confindustria e quindi anche a nome dei concessionari. Facciamola finita una volta per tutte di parlare di questi 98 miliardi come evasione fiscale. C'è un processo in corso, è un ritardo, sono solo dei ritardi di collegamenti rete nella serie apparecchi nel momento in cui questo settore si apprestava a fare la più grossa rivoluzione in materia di gioco, copiataci anche da paesi come la Francia. Veniva messa a cielo aperto la più grande rete del mondo che sconfiggeva 900.000 videopoker messi nei sottoscala dei bar in mano alla criminalità. Allora, secondo me poi la politica deve essere propositiva, dobbiamo tutti essere propositivi. Quello che stiamo chiedendo noi è questo. Ci credo poco, sono un padre di famiglia, ho fatto la professione legale per molti anni, quindi credo di non poter dire di conoscere solo il mio settore. Sì. Credo che ci sia un pizzico di ipocrisia laddove questo problema è esploso con la presenza di 403.000 slot e nessuno si sta chiedendo cosa succederebbe domani togliendo queste 403.000 slot, perché nessuno, e con i posti di lavoro anche. Nessuno sa il contenuto dell'ultimo lavoro fatto dall'ex ministro Visco e deputato in Parlamento di quello che era la situazione italiana prima del 2003. Ma si fermi qui, Pucci, perché io mi devo fermare. Riprenderemo questo discorso più avanti. Intanto ci troviamo domani alle 6.30.